Francesco Rutelli lascia il Partito Democratico. Prima aveva lasciato i radicali, i verdi, l'arcobaleno, la margherita, l'ulivo, il Campidoglio, la corale dei Castelli, la bocciofila di Frosinone, gli amici del pedale di Frascati, la quattro spaghi di Monterotondo. Ma la svolta, come scrive nel suo libro, è l'adesione al gruppo cattolico degli sbandieratori moderati di Latina. Qui però si temono altri casini. Chissà dov'è.